Frenesia prenatalizia. Come dice il poeta, non ho voglia di uscire in un gomitolo di strade affollate, per di più. Me ne resto a casa con le quattro capriole di fumo del focolare, che significa, fuori di metafora, che mi sdravacco sul divano a leggermi un bel giallo, e i gialli sono una lettura altamente raccomandabile nei momenti di crisi, e oramai sono ammessi anche negli ambienti intellettualmente più severi. Però devo scegliere quale. Che non è facile, non è facile, perché i classici vi sono tutti a memoria, le novità ne leggo fin troppe per motivi professionali, e poi, diciamolo, per affrontare i gialli che descrivono oggi con i loro serial killer sempre più efferati, le loro vittime sempre più martoriate, i loro investigatori sempre più allucinati, serve una maggiore energia morale di quanta oggi mi sento addosso. E allora in queste occasioni io pesco più o meno a caso nel cestone dei vecchi fascicoli scompagnati, dove si accumulano i frutti di casuali ricerche presso edicole bancarelle, vecchi autori che classici non sono riusciti a diventare, titoli ignoti ma per qualche verso promettenti, opere minore di autori noti, insomma, roba che per un motivo o per l'altro ha suscitato la mia curiosità. Così pesco, non completamente a caso, perché scarto con cura i vari Ross McDonald e Francis Durbridge, e afferro con le dita dunque un bel Ellery Queen che non ho mai letto, che almeno ho dimenticato. La parola chiave, Face to Face, copyright 1967, traduzione italiana non importa di chi, giallo Mondadori numero 1002, 14 aprile del 68, vive 250. Che tempi. E poi qualcuno si ostina a parlare del 68, quando Ellery Queen inedito si trovava in edicola a 250 lire. Stavolta però va male, questo Ellery Queen non riesce a ingranare, è ripetitivo, il giovanotto che Ellery incontra nella prima pagina ricorda moltissimo quello che incontrava nei Denti del Drago 28 anni prima, e infatti c'è subito una inevitabile complicazione di testamenti, proprio come allora, la ragazza di cui il giovanotto si innamora è descritta così in punta di penna che si capisce subito che sarà l'assassina prima ancora che sia assassinato qualcuno, insomma, non funziona. E d'altronde nel 67 Friedrich Denny e Manfred Lee, che sapete che sono i due che firmavano in società con Ellery Queen, no? Avevano 62 anni a testa, avevano già scritto 35 romanzi con quel personaggio e quasi altrettanti senza, ed era giustificabile se si ripetevano un po'. Ma il lettore, nonostante queste giustificazioni, si distrae lo stesso, la sua attenzione corre fatalmente a quanto altro offre il fascicolo, che è la pubblicità libraria. Perché poi ha smesso, ma fino agli anni 70 la Mondadori sostenava a infarcire i suoi settimanali, i gialli, Urania, persino Topolino, con delle manchette che annunciavano l'uscita delle sue novità, per cui dalla lettura dei vecchi gialli è possibile ricostruire capitoli interi di storia della nostra editoria. E così da questa non lettura di un vecchio Ellery Queen si potrà scoprire che cosa si offriva ai lettori in quell'ardente primavera del 68, quando il paese affrontava con qualche perplessità il preannuncio di radicali trasformazioni che poi non si sono effettuate. Vediamo subito, limitandoci alla narrativa, se no si fa troppo a lungo, troppo tardi. La controcopertina annuncia l'uscita di due capolavori, Le pareti bianche e Scala a San Potito di tale Luigi Incoronato, sono definiti due romanzi dolorosi e autentici in un meridione caliginoso e silente. La terza di copertina presenta un'intera nuova collezione di letteratura, raccomandando in blocco Sergio Ferrero, Gloria, un intreccio di destino e una struggente storia d'amore, Gianluigi Piccioli, In orgaggio, una visione raggiolante della società neocapitalista, Lamberto Pignotti, Una forma di lotta, una violenta critica alla civiltà dei consumi, che tempi, Fabio Carpi, La digestione artificiale, Le fervide e angosciate confessioni di uno scrittore, e Alcide Paolini, Controveglia, Le sofferenze della memoria tra i deliri di un party notturno. Io non me ne ricordo nessuno. Nell'interno, a pagina 91, questo probabilmente se lo ricorderà la Came, ma io no, c'è un Mario Spinella di annata, sorella H, Libera Nos. Il vagare di un nevrotico rinchiuso in una clinica tra i luoghi di una fantasia che va riscoprendo. Io mi ricordo anche Una forma di lotta di Lamberto Pignotti, ti dirò. Perché Ma non tutti sono come Raccani. La bella mostra di sé nella mia biblioteca, ecco, che è polverosissima, peraltro, giusto appunto non la tolgo dal 68. E a pagina 74 cosa si raccomanda? Carlo della Corte di alcune comparse a Venezia, ce l'hai? No, però possido di Carlo della Corte, se non vado errato, non è lo stesso che ha fatto un'enciclopedia del fumetto giù di lì. Cambiando mestiere, di alcune comparse a Venezia è una vecchia città in una luce nuova distorta in una visione febbrile. E per non trascurare gli autori stranieri, a pagina 82, in piena pagina, c'è annunciato un grande avvenimento letterario, l'atteso romanzo di William Gaddis, questo mi mancio il microfono se lo conosci, Le Perizie, che non è un libro, ma un viaggio, un vizio, una peripezia, un innamoramento e una sconvolgente profusione di intelligenza, di fantasia, di ironia, di erudizione, due volumi in cartia india a 1660 pagine, nella nuova collezione degli scrittori stranieri. Mai sentito nominare, però. Beh, insomma, 10 titoli la cui caratteristica unificante, come suppongo avete notato, è quella che di essere scomparsi senza lasciare traccia nella coscienza del pubblico leggente, con l'eccezione dell'Accame. In realtà gli unici testi raccomandati in quel fascicolo si trovano a pagina 120, gli unici testi raccomandati che suscitano qualche reazione nella memoria contemporanea si trovano a pagina 123, prendete un papero, tre nipotini, uno zio avaro e ricchissimo, un cugino fortunato e una banda di ladri mascherati, e avrete una succulenta antologia di Paperino, appunto, e quella degli albi di Superman a pagina 117, con l'invito ad aderire al Super Bat Club, che forse come struttura culturale oggi non esiste più, ma tanto che sia Superman lo sappiamo lo stesso. Benissimo. Ecco, tutto qui, magari è un caso, io medito un po' depresso lasciando cadere l'Harry Quinn nel cestone, magari l'aprile del 68 era un mese particolarmente sfigato, i libri usciti in marzo e in maggio si saranno imposti con autorevolezza nell'immaginario collettivo, magari oggi li leggono e li ricordano tutti, potrei controllare pescando un altro giallo a caso, ma ho un po' paura. Se trovassi offerti altri 10 titoli su 12 assolutamente sconosciuti o quasi, avrei una prova in più di come la vecchia promessa di immortalità offerta dall'ideologia classica della letteratura, immortalità garantita agli autori impegnati, contrapposti all'effimero dei fumetti, dei gialli e di altri generi di consumo, sia sostanzialmente un inganno sostenuto dall'industria editoriale, che ha la necessità di presentare ogni settimana un grande avvenimento letterario a spese di chi si è disposto a mettersi in casa due volumi di 1660 pagine in carta d'India. A pensarci bene, però, non sono in posizione di dire di queste cose. E anch'io, come si diceva una volta, ho fatto gemere i torchi, anch'io affido le mie fatiche alle mie fatiche saggistico-letterarie, le residue speranze di essere ricordato nei tempi a venire, e all'idea che tra 25 anni qualcuno ripeschi il titolo della mia raccolta di raccontini, o del giallo che ho scritto con Cirio Ferentino, o della raccolta di pezzi tratti dalla caccia che ho pubblicato anni fa con l'Accame, ve lo ricordate tutti, vero? Quello, e che ci faccia sopra dell'ironia rielaborando il vecchio motivo di Carnia de Chiera Costui e del chissà perché hanno pubblicato sta roba, è un pensiero intollerabile. Chiedo scusa ai miei confratelli autori, passo, chiudo e buone feste a tutti.